Allora, buonasera, siamo qui per presentare questo libro di Elena Tavani, come sapete, Hannah Arendt e lo spettacolo del mondo, sottotitolo Estetica e Politica. È un libro pubblicato da Manifesto Libri, molto, molto denso, è un libro denso, di grande intensità. Quindi vorrei in questa mia introduzione dire molto rapidamente in che cosa consiste il carattere di questo volume e come si inquadra all'interno della tradizione ormai molto internamente molto differenziata delle interpretazioni arendtiane. Qui abbiamo una interprete eccellente di Arendt, che è la mia cara amica Laura Boella, ma poi abbiamo un esponente della estetica come Pietro Montani, che è un po' l'erede di una scuola di estetica di notevole importanza che faceva appunto capo al nostro caro appunto amico Emilio Garroni. E quindi il mio intento sarà quello di inquadrare un attimo questo strano animale, che questa lettura che Elena Tavani dà da di Arendt, in un libro con dei passaggi molto densi, per certi versi anche molto tecnico come libro, ma dico in senso buono, perché i veri libri sono quelli che parlano una lingua straniera. I veri libri non sono quelli che si percepiscono subito. Cioè, un libro deve avere una lingua straniera, deve essere anche un libro con una lingua che abbia una capacità straniante. Questo libro ci dà una interpretazione di Arendt che per un verso ripropone, riannoda dei fili delle letture che abbiamo avuto storicamente appunto in Italia, ma non soltanto in Italia, e anche soprattutto in Germania, ma però anche dice anche altre cose. Intanto, in maniera molto molto molto diciamo molto semplice, il libro immediatamente prende le distanze dalla polarità, dall'endiadi del sottotitolo Estetica e Politica. Estetica e Politica non significa né estetizzazione della politica, l'estetica della politica è una delle dimensioni che hanno segnato la fenomenologia, se volete, delle masse nel secolo che abbiamo alle spalle, per certi versi con effetti esteticamente sgradevoli, riaffiorano in alcune forme del neopopulismo mediatico contemporaneo, anche se il termine neopopulismo farebbe troppo onore, perché come il collega Laclau dice, populismo è comunque un tentativo di costruire il concetto di popolo politicamente. Qui invece nel neopopulismo mediatico, di cui noi siamo una triste avanguardia mondiale, il popolo è decostruito in audience, esattamente il contrario della costruzione. Tra parentesi, io non amo neanche il populismo che costruisce il concetto di popolo, non amo neanche l'idea del popolo con la maiuscola. Amo molto le singolarità e se volete sono rimasto molto legato alla idea della lotta di classe, sia pure in forme nuove. E dunque, presa di distanze, in che senso l'estetico, la dimensione estetica viene introdotta in questo libro? Elena Tavani ce lo dice con molta finezza, contro una tendenza dispotica della filosofia. E qui introduce in qualche modo il discorso arendtiano. cosa sta ad indicare il rapporto tra estetica e politica? La spettatorialità della dimensione del nostro essere in comune. E uno dei temi del libro è il tema legato ai mutamenti della scena del mondo, no? Della scena del mondo che in qualche modo era un tempo dimora e adesso diviene teatro. Tra parentesi, questa metafora, grande metafora influente della Teatrum Mundi, del Teatrum Morbis, è una metafora in qualche modo che nasce insieme alla politica moderna, così come insieme alla politica moderna nasce quella che potremmo chiamare la sindrome spettatoriale, spectator sum in arc scena, non actor, no? Questo è uno dei temi in qualche modo che inaugurali del politico moderno. E come viene riletta ora? Lo schema del libro è uno schema che vi dico, poi lo riprenderanno i colleghi Pietro Montani e Laura Boella. Si parte dall'analisi delle idee estetiche contenute in Vita Attiva e Human Condition, si analizza la scena del mondo, si vede il rapporto tra modernità, arte e politica, si affronta il passaggio della doxa e quindi il tema dell'ontologia prospettica, dove qui naturalmente entra in campo un passaggio importante di Arendt, soprattutto il confronto con Merleau-Ponty, lo spettatore, il tema della facoltà di giudizio, del giudicare, l'attore, la vita in azione, la questione dell'umanismo e infine il capitolo finale molto, molto legato alla temperie del dibattito odierno, vita politica, biopolitica. Un dibattito che in qualche modo, rispetto al quale io mi trovo, come Pietro sa, in una posizione di prossimità distante, no? Cioè, nel senso, e dirò per quale ragione alla fine. Intanto il pensiero di Arendt è caratterizzato da uno spostamento da una ipotetica natura o da una idea di stato naturale, di stato di nature, di natura, alla idea di una condizionatezza dell'esistenza. E naturalmente tutto questo, è almeno il modo in cui io sto leggendo, rileggendo in contropelo il libro di Elena Tavani, determina una sottrazione della politica alla logica produttiva. Cioè la politica non può coincidere con la logica produttiva, qui è stato detto molto, con l'opera, non è opera, è assenza d'opera, inoperosità, eccetera, eccetera. Quindi non c'entra con la techne, non è in qualche modo, anzi teoricamente non è techne, quindi da questo punto di vista sembrerebbe che il parallelo con l'estetica in senso forte non può essere che nefasto, no? Nel senso che se la politica diventa opera d'arte, non abbiamo Burckhardt e Rinascimento, abbiamo il mito nazi. Il mito nazi è l'idea di una politica come progetto produttivo che modella la comunità e modella l'umano. Dunque abbiamo il mito nazi alla fine, tanto insomma c'è la famosa intervista che fece Adolf Hitler al giornalista americano alla vigilia della invasione della Polonia, dice: ma lei passa per essere un aggressivo, un guerrafondaio? No, io mi difendo dai miei nemici, una vecchia tattica, eccetera, poi vede le mie mani, io sono un artista, io voglio modellare il mondo, non voglio assolutamente appunto creare effetti di distruzione. Quindi c'è l'idea del plasmare e l'idea dell'opera e l'idea più nefasta, Che impressione ho avuto io diciamo, dal modo in cui Elena Tavani legge e rilegge Hannah Arendt? Che vi è una retroazione, un feedback sull'intero ritratto della Arendt determinato dalla, secondo me anche con una dose di legittimità, determinato dagli effetti che si producono attraverso l'opera postuma, The Life of the Mind, no? Cioè la vita della mente. Perché esattamente in quest'opera che, come sapete, che Arendt chiude proprio, cioè non che chiude, muore mentre stava incominciando a scrivere la sezione dedicata alla facoltà di giudizio, la facoltà di giudizio, e noi ricostruiamo il pensiero di Arendt al riguardo attraverso, grazie alle lezioni sulla filosofia politica di Kant, riusciamo a ricostruire il pensiero, però era in procinto di redigere la sezione di una cosa. Ebbene, qui lei, diciamo, kantianamente quasi, no? Distingue questi tre momenti dell'azione della mente. Quindi ci dice Elena una cosa un po' diversa da quella che dicono alcune letture. Non vi è semplicemente un passaggio dalla Arendt che privilegia il prevalere della praxis sul theorein e sul poiein, no? Cioè non è quindi vita attiva, cioè all'Arendt ultima che in qualche modo riguadagna l'autonomia del pensare teoretico rispetto al primato del pratein, eccetera. No, è banale dire, cioè, c'è anche in parte questo, ma è banale fermarsi a questo. C'è in realtà un modo arentiano di ripensare anche i temi di vita attiva, almeno in questo modo orienta il tuo libro, e li ripensa attraverso una scansione diciamo kantiana, tra virgolette, che è la opera tra pensare, volere e giudicare. E qui vado molto rapidamente, che qui abbiamo anche il significato del confronto con un autore come Merleau-Ponty all'interno, perché in qualche modo l'essere del mondo coincide con l'apparire, e dal momento che l'essere del mondo coincide con l'apparire, non si dà cosa essere vivente che non sia destinato a essere percepito. E quindi lo dico meglio, cerco di dirlo meglio: la realtà oggettiva del mondo altro non è che il correlato di una pluralità di spettatori, che sono a un tempo soggetti e oggetti, cioè soggetti che percepiscono e oggetti percepiti. È molto bella, è di una importanza straordinaria, perché senza questo non possiamo neanche poi rileggere il tema rentiano della sfera pubblica. E anche, se mi consentite una testimonianza, il fastidio che mi comunicò anni fa Habermas quando mi raccontò il suo incontro con Hannah Arendt alla New School a New York. Lui in 5 minuti cercò, possiamo immaginare come, perché Habermas è una persona straordinaria nella scrittura, pur non condividendo molto di quello che scrive Habermas, sono amico, gli voglio molto bene, ma comunque non è certamente il parlare, no, il suo modo. Pare che Arendt l'abbia gelato con una risposta: quello che lei intende con Öffentlichkeit non c'entra niente con quello che intendo io. È stata proprio durissima, e questo me l'ha riferito Habermas: non c'entra niente con quello che intendo io. Proprio disse una cosa. Öffentlichkeit, sfera pubblica, sfera pubblica la pubblicità, basta che non si intenda la pubblicità nel senso degli spot pubblicitari, ecco, la pubblicità come dimensione pubblica in qualche modo. E allora vedete qui qui naturalmente si pone un problema, diciamo questa dimensione spettatoriale dell'apparire, del mondo come apparire, è la condizione imprescindibile per cogliere anche il significato del nesso che Arendt istituisce tra la nozione di Öffentlichkeit, cioè della pubblicità intesa come dimensione pubblica, come sfera pubblica, e la dimensione della politica. Cioè non è unicamente i soggetti che in modo edificante si muovono comunicativamente e fanno dei discorsi progettualmente razionali e comunicativi. Questo per Arendt è terribilmente secondario, non è questo. La politicità sta nel fatto che noi siamo nel mondo relazionalmente, ma come dei soggetti oggetti che percepiscono e che vengono percepiti. Questo naturalmente, come vedremo tra poco, ha a che fare strettamente con il confronto, con le tematiche di Merleau-Ponty. Però prima andiamo alle questioni più concettualmente forti. Le questioni che emergono, le riduco a due, perché il libro è un libro molto denso, intenso, che va letto con molta attenzione. Prima questione, dove siamo noi? Dove siamo? Questo è l'interrogativo arendtiano, bellissimo interrogativo. Dove siamo noi quando pensiamo, quando vogliamo qualcosa o quando giudichiamo? Dove siamo? Qual è il luogo? Potrebbe dire qual è il luogo da cui noi pensiamo, da cui noi vogliamo, da cui noi giudichiamo? Da quale luogo? Da quale luogo? Guardate bene, già porsi questo interrogativo significa superare una doxa in qualche modo, no? Che corre, che circola largamente all'interno anche dei dibattiti odierni sulla politica, dove non ci si interroga mai. Benissimo, il giudizio, certo, il giudizio, come vedremo alla fine, è uno dei miracoli della politica, giudicare, ma finché non ci chiediamo da dove giudichiamo, il giudizio è affetto dello stesso male che vuole giudicare, che pretende di giudicare, perché si colloca nello stesso luogo dell'oggetto giudicato, come pura reattività, come mera reattività, e dunque dipendente. E secondo interrogativo, quale legame sussiste tra le attività mentali, cioè in particolare il pensiero, che naturalmente l'attività che dice Arendt in The Life of the Mind, della vita della mente, precede le altre attività e il mondo, che rapporto c'è? Allora, andiamo a vedere un attimo la prima questione da dove siamo noi quando pensiamo, vogliamo e giudichiamo. Ci spinge a operare uno slittamento dallo spazio al tempo. E qui naturalmente c'è un passaggio di Arendt bellissimo, poi dirò alla fine dove io non mi trovo in maniera radicale con l'impostazione arendtiana sul politico, ma lo dirò soltanto in una battuta finale. Lo spazio, dice Arendt, è la dimensione fondamentale del mondo dell'apparire. Dimensione fondamentale del mondo dell'apparire. E in tal senso è il luogo delle attività spirituali è alla lettera il nessun luogo, è utopos, cioè nessun luogo, cioè un luogo non luogo. E qui naturalmente gli evidenti richiami ad Agostino, a Kant, a Heidegger, sono dei richiami che servono a individuare nel tempo la dimensione fondamentale della vita della mente. Cosa significa questo? Questo lo sappiamo però, lo sappiamo, è bene ripeterlo perché sono dei passaggi filosofici bellissimi, ma cosa significa questo? qui ancora è. Questo significa che le varie attività mentali, dice Arendt, corrispondono a diversi modi della temporalità. Al pensare che mira alla verità corrisponde sempre il presente. Noi pensare è sempre un pensare al presente. Alla volontà che rende presenti cose che non sono ancora e che punta a, dice Arendt, a dare inizio a un nuovo. Dare inizio a un nuovo. Corrisponde necessariamente il futuro. Al giudizio che riflette sull'accaduto, badate bene, nella sua irripetibile unicità, badate bene, il giudizio deve, il giudizio per, diciamo, per Arendt è il giudizio kantiano, ma questo giudizio deve sempre cadere, è una pensatrice, lei avrebbe detto di sé un pensatore, perché non riteneva che ci fosse una differenza sessuale, cioè di essere un filosofo al maschile, è terribile da quel punto di vista. È una pensatrice del XX secolo, quindi bisogna pensare la singolarità dell'evento, non la tipologia, non è un giudizio del tribunale. Lei non crede al tribunale della storia, non ha nulla a che fare col giudizio tribunalizio hegeliano, eccetera. Ha a che fare invece con il giudizio storico e politico, ma il giudizio storico e politico è una riflessione sull'accaduto nella sua unicità irripetibile. E dunque la temporalità che corrisponde alla facoltà di giudizio è il passato. Giudica sempre qualcosa che ha. E questa era la prima questione, cioè da dove noi, da qual è il luogo da cui noi pensiamo, vogliamo e giudichiamo. Si pensa dal presente, si vuole verso il futuro, si vuole nel futuro e si giudica sul passato, su ciò che è accaduto. Seconda questione, vi ricordate la seconda questione? Quale legame sussiste tra le attività mentali, eccetera, e trova una risposta nel linguaggio. La natura del linguaggio per Arendt è essenzialmente metaforica. Anche qui non è il linguaggio di Arendt, ci credo che si incavolava, il linguaggio argomentativo, vabbè sì, ma insomma cioè, il linguaggio è metaforico anche nella scienza. Arendt fa in tempo a conoscere gli articoli di Max Black sulla metafora nella scienza, fa in tempo a conoscere queste cose, questi contributi importanti sulla inespungibilità della figuralità, anche metaforica, all'interno della scienza. E naturalmente qui Arendt in qualche modo dice la metafora è ponte tra, sintetizzo, vita della mente e vita del mondo. Faccio un po' il verso a Blumenberg, che non a caso ho fatto da tempo della vita, qui vita della mente e vita del mondo. E cioè il linguaggio essenzialmente metaforico nella sua natura più profonda ha una funzione simbolico-pontificale, ma non nel senso religioso, nel senso che getta ponti, deve colmare lo iato, l'abisso, e qui appunto la lezione di Merleau-Ponty tra il visibile e l'invisibile. E qui appunto tra il visibile e l'invisibile, diciamo, e qui naturalmente voi sapete che le note sul visibile e l'invisibile sono le note postume di Merleau-Ponty che il mio amico, in parte anche semimaestro, Claude Lefort, ha curato a suo tempo, e che in qualche modo sono importanti per Arendt, perché lì Merleau-Ponty si avvicina all'ontologia dell'ultimo Heidegger, introducendo una nozione che aveva suggestionato Arendt, che era la nozione di iperdialettica. Cosa significa l'iperdialettica? Termine che mi pare Arendt usi solo forse una volta, ma non mi ricordo bene esattamente dove. È come apertura, badate bene, senza sintesi e direzione univoca, come apertura alla complessità relazionale della esperienza. E tant'è vero che il bersaglio polemico di Arendt e soprattutto della Arendt, anche come viene fuori dalla ricostruzione di Elena e della vita della mente, è una sorta di tentazione dominante dell'Occidente, la reductio ad unum, la reductio ad unum, la reductio ad unum. Questo è esattamente il tema del Merleau-Ponty ultimo, evitare una dialettica che alla fine si concilia nell'uno, no? Ad maiorem Dei gloria, in qualche modo, no? che chiude in qualche modo l'orizzonte in una direzione univoca e che chiude anche alla contingenza e al rischio del molteplice. E ecco, la politica a questo punto, come emerge dal libro, e la politica rentiana, l'estetica politica appunto rentiana, è un gioco di specchi enigmatico tra quelli che chiamavo prima un po' paradossalmente due miracoli: il miracolo della singolarità dell'uomo, della donna d'azione, che è appunto la facoltà di cominciare qualcosa di nuovo, e il miracolo della facoltà di giudizio, una sorta di gioco speculare, quello che Elena chiama chiasma di azione e giudizio, il chiasma di azione e giudizio. E qui non dico la ragione per la quale io mi sento prossimo e distante dalle declinazioni in chiave biopolitica di queste tematiche. Dico unicamente una cosa finale, perché ho preso più tempo del previsto e del necessario. Dico soltanto una cosa finale riguardo al modo in cui Arendt concepisce la politica. Cioè, io penso che questo grande testo, questa riflessione finale di Arendt, su cui Elena Davani ha ricostruito poi il percorso intero arendtiano, sia una grande incompiuta, e nel senso che Arendt alla fine, malgrado tutto, ci lascia l'elaborazione di una faccia della politica, di una faccia del politico, che è la politica come processo relazionale, la politica come praxis che connette fra loro le diverse temporalità, pur scandite nelle facoltà diverse della mente, ma non tematizza mai la politica come evento. Io dico sempre Arendt Arendt è una faccia importante della politica. Ci ha detto che la politica non è, diciamo, unicamente antitesi, amico-nemico. La politica nasce dalla relazionalità e nasce dalla prassi di trasformazione. E però la politica ha anche un'altra faccia, cioè la politica è la facoltà di intervenire nel momento opportuno. La politica è anche il kairos, la politica è anche la decisione a tempo debito, nel tempo debito, che cade nel tempo debito, è la decisione non rinviabile, la politica è anche la tempistica della decisione non rinviabile, quella, per dirla con Walter Benjamin, se non riesci ad operarla alla fine vai in malora la costellazione del tempo storico, vai in malora. e si ritraduce nuovamente in cumulo di cadaveri. E allora, cioè, la politica di Machiavelli, cioè la politica come eventualità, e non a caso oggi una parte importante del dibattito filosofico in qualche modo tenta di vedere l'altro lato nascosto ad Hannah Arendt o non sviluppato, lasciato come incompiuto in Hannah Arendt, che è la dimensione cairologica della politica. Quindi il processo e l'evento. La tragedia è che sempre nella modernità le due visioni della politica si sono configurate come alternativa. La politica come praxis processuale, relazionale, o politica come evento e come decisione, mentre invece dovevano essere i due lati della stessa medaglia. Dalla nostra capacità di suturare la ferita tra questi due lati, io penso dipenda il futuro del XXI secolo. Ringrazio Elena per questo contributo e adesso la parola a Pietro Montani. C'è la lucetta verde. Eccolo. Dunque, e della densità, della complessità, della ricchezza del libro di Elena Taverni ha già detto Giacomo Marramao. Io invece esprimo il rammarico che in una sezione come questa siamo costretti, o almeno lo sono io perché non ho la stessa abilità, capacità di Giacomo di tenere insieme in un quadro unitario molte cose che restituiscono molte facce di questo libro sfaccettato. Invece io ho ritenuto di scegliere un filo conduttore, il che sacrifica una grandissima quantità di cose, tra l'altro quasi tutte cose su cui ho qualcosa da dire, quindi il sacrificio è ancora maggiore. Quindi vorrei anche un po', come dire, in spirito di servizio, soffermarmi soprattutto sull'intersezione estetico-politico, che è quella a cui credo tutto sommato poi alla fin fine Elena tenga di più, perché su questo tema sono circolate e circolano ancora un'infinità di incomprensioni, inesattezze, di travisamenti. Per cui si tratta piuttosto di capire come non è soltanto in gioco un rapporto analogico, un trasferimento di categorie dall'una all'altra, ma la messa in evidenza di un'area di intersezione significativa per tutte e due gli approcci. Per cui comincerei col mettere in evidenza due, perché sono più di due, dei principali punti di innesto, vorrei chiamarli così, del politico nell'estetico. Due dei punti di innesto. Il primo lo chiamerei fenomenologico, ma è un fenomenologico che tiene conto dell'arrivo merlopontiano di Hannah Arendt, su cui ha già detto cose importanti Giacomo e su cui tornerò anche un attimo più avanti. Fenomenologico nel senso che prende di petto la questione dell'apparenza e la decostruzione radicale della coppia metafisica classica che oppone apparenza ad essenza. Tutto ciò che è in quanto si porta nell'apparire, come avrebbe detto il maestro di Hannah Arendt, che riecheggia, con cui ha una profonda affinità, anche laddove ne rovescia integralmente il pensiero, e spesso capita che proprio palesemente proceda per antifrasi rispetto ad Heidegger, naturalmente, ciò che è in quanto si è portato nell'apparire, e questo vuol dire che si è offerto a uno sguardo impersonale, e cioè che ha innestato e posizionato uno spettatore e uno spazio per la pluralità degli spettatori, perché lo spettatore non è mai singolo, ma è sempre plurale, in pluralità. È un incubo quello del singolo, c'è un passaggio di Hannah Arendt che ricorda il sogno di quello appunto che era solo nel mondo, non c'è più il mondo se uno fosse totalmente solo. Quindi già vedete come in questo spazio dell'apparire, che è estetico, perché ha a che fare con la nostra aesthesis, con la nostra sensibilità, prendono figura una serie di personaggi concettuali del mondo, del vocabolario di Hannah Arendt. Quindi innesto posizionamento di uno spettatore in uno spazio che è plurale ed è dell'apparire. Secondo punto di innesto è che in questa condizione estetica, nel senso etimologico, in questo offrirsi ad un aesthesis, ad uno sguardo, ciò che appare, l'altro grande tema che tu hai toccato e che io voglio approfondire un po' di più, più specificamente, in questa condizione estetica ciò che appare si correla con l'attività del giudizio. Si correla con l'attività del giudizio, cosicché lo spazio dell'apparire è anche lo spazio del giudizio, pubblico plurale del giudizio. Su quest'ultimo punto allora vorrei soffermarmi, perché è una dei grandi leitmotiv del testo di Elena Tavani, che è un testo anche linguisticamente, argomentativamente complesso, che non è disposto secondo una scansione cronologica, ma prende, riprende, mescola, fa progredire il discorso, intrecciando fili conduttori. Uno di questi fili è indubbiamente la questione del giudizio, e del resto l'ha ricordato Giacomo Marramao. Nel dicembre del 75 Anna fu ritrovata inserita nella macchina da scrivere, all'epoca c'erano le macchine da scrivere, il foglio con sopra scritto judging, judging. E forse di questa terza parte, La vita della morte, giudicare, e la lettura del libro di Elena Tavani ci dice qualcosa. È una sua ambizione non dichiarata, ma la dichiaro io per lei, cioè ci dice qualcosa di come forse questa terza parte così risolutiva sarebbe stata costruita da Hannah Arendt, certamente sulla base delle lezioni sulla critica facoltà di giudizio tenute qualche anno prima dalla stessa Arendt, oggi leggibili, eccetera. Allora, devo spiegare perché la questione del giudizio evidenzi un punto di innesto dell'estetico, perché mentre nella prima cosa che ho detto si capiva, in questa seconda va spiegata in termini kantiani. Va spiegata in termini kantiani e precisamente nei termini di ciò che Kant definisce giudizio riflettente, o meglio, facoltà riflettente di giudizio. Che cos'è la facoltà riflettente di giudizio? È quella che entra in gioco quando mi è dato un particolare, oppure un contingente in politica, un particolare nell'uso cognitivo, un alcunché di contingente, un evento imprevedibile nell'ambito del politico, quando appunto è dato un particolare e il giudicante deve trovare la regola sotto cui sussumere, la legge, perché non ce l'ha. Cioè non deve applicare una legge che già possiede, non è applicativo. Il giudizio è riflettente quando bisogna trovare, ipotizzare significa trovare, fare un'ipotesi, una regola, una norma. Stiamo nell'ambito del movimento che istituisce le norme, non che applica le norme. Movimento essenzialmente creativo, è quello della rule changing creativity, di cui parlava Chomsky e su cui si è soffermato il maestro sia di Elena che mio, Emilio Garroni, con importanti osservazioni di cui si tiene conto qua. Quindi si tratta di trovare questa regola sotto cui sussumere. Per contro, quella facoltà che Kant chiama determinante consiste semplicemente nel sussumere sotto una regola già data. Io già ce l'ho, non devo fare altro che sussumere. Non si creda che questo sia meno difficile, sembra che sia meccanico, non è così, ma certamente un più alto tasso di creatività, per così dire, si coglie nel giudizio riflettente. Nel giudizio riflettente la regola la devo trovare, non ce l'ho, mi trovo di fronte a questa mancanza e la devo trovare. Ora per Kant, ecco il punto che vi sembrerà lì per lì sorprendente, ma su cui posso dire solo due parole per cercare di renderlo più perspicuo. Per Kant il giudizio estetico è il prototipo del giudizio riflettente. Il giudizio estetico è il modello, fondamento, insomma, si possono dire tante cose, diciamo il prototipo, è il giudizio riflettente per eccellenza, è il dispositivo del giudizio riflettente dato nella sua nudità. Ecco allora, il giudizio estetico è il prototipo del giudizio riflettente. Che cosa dice Kant? Dice, in sostanza, lo semplifico naturalmente, che la facoltà riflettente di giudizio, che ho appena chiarito come funziona, non potrebbe entrare in funzione, non potrebbe mai entrare in funzione, a meno di un riferimento ad una condizione indeterminata di senso. Indeterminata, questo è importantissimo, questa indeterminazione, su questa indeterminazione poi non ne parlerò più, il nostro maestro ha riflettuto come forse nessun filosofo moderno con tale profondità, sull'importanza di questo indeterminato. Quindi una condizione indeterminata, cioè, per dirla in modo brutale, l'ipotesi, la condizione indeterminata è l'ipotesi che ciò che incontro possa avere un senso. Possa averlo, non che lo debba avere, né che io lo troverò, ma che possa avere un senso. Cioè, ne siamo nell'ambito del possibile, però è un'ipotesi che io non posso non fare, la devo fare per forza. Il giudizio riflettente non entrerebbe nemmeno in movimento, cioè il cercare una regola, se io non facessi questa presupposizione, tuttavia indeterminata, che da qualche parte le regole ci sono e che bisogna poterle sperimentare, tirar fuori, eccetera, eccetera. Quindi l'ipotesi che ciò che incontro deve poter avere un senso e che questo senso, per essere tale, sia un senso condividibile, comunicabile, non sia solipsistico. Stiamo fuori dal solipsismo, cioè che lo posso condividere con altri, questo senso. Kant definisce allora questa condizione indeterminata di senso e di comunicabilità, che è il prototipo del giudizio riflettente e che ci fa vedere un altro punto d'innesto, lo definisce con un termine su cui Elena Tavani lavora moltissimo. Il termine di Kant è Gemeinsinn, senso comune. Senso comune o sentimento comune. Per me il senso o sentimento comune. Nell'analisi del senso comune compaiono almeno due movimenti complementari di evidente pertinenza politica, in realtà ne compaiono molti di più, però due io qui posso indicarli, quelli legati anche al vocabolario kantiano più noto e più frainteso, più noto, il disinteresse, per esempio. Il disinteresse, che dice il disinteresse? Che cos'è il disinteresse? Il famoso disinteresse del giudizio di Gussi. Il disinteresse è nient'altro che la capacità di prendere le distanze da motivazioni attinenti allo stato particolare o privato, sottolineo la parola privato perché è la bestia nera di Hannah Arendt, di prendere le distanze dalle motivazioni attinenti allo stato particolare o privato del giudicante. Noi siamo degli animali, degli enti fatti così, che siamo capaci di prendere queste distanze nel giudicare, ma il giudicare a sua volta è in quel mondo dell'apparire che dicevo prima, eccetera, eccetera. Noi siamo degli enti che in questo teatro o spazio fanno queste operazioni. Per esempio sono capaci di prendere queste distanze. Il giudizio estetico dunque è il contrario di ciò che Kant chiama Privaturteil. Il giudizio privato, mi piace la birra gelata, certo mi piace, però magari domani non mi piace più, è il giudizio privato che ha delle motivazioni puramente legate al senso nell'accezione fisica della parola, eccetera. Quindi questa è la prima, il disinteresse colto in questa prospettiva, che è la garanzia del giudizio equanime, del giudizio distaccato, del giudizio appunto non interessato. Secondo, il è complementare nel giudicare, io sono in grado di tener conto del giudizio possibile, dice Kant, non di tutti, che sarebbe, e qui Kant è molto attento nel cosa che Kant non fa quasi mai, perché scrive, per Kant non erano importanti le formulazioni in senso linguistico, ma qui è molto attento, di giudizio estetico è qualcosa che viene pronunciato tenendo conto del giudizio possibile di ciascun altro giudicante, eh? i singoli e la pluralità sono in gioco. Hannah Arendt lo dice continuamente nelle sue lezioni kantiane, no? E qui è la prima volta che Kant prende in considerazione la pluralità, gli uomini, non l'uomo o il genere umano, ma gli uomini, che sono singoli, sono diversi, sono e tuttavia il giudicante è in grado di tenerne conto. È in grado di tenerne conto. Che significa? È in grado di tener conto del fatto che, parallelamente a quanto detto prima per il giudizio riflettente, un consenso, qui ci si può mettere perfino il trattino, che è sconsigliabile ma non sempre, un sentire insieme, deve poter essere possibile, un consenso, benché nulla, come dicevo prima, possa garantirmi che lo sarà e che accadrà effettivamente, però deve poter essere possibile, Cioè la regola del consenso deve poter essere trovata, ancorché nulla mi possa garantire che io la troverò e così via. Entrambi i movimenti che ho appena descritto sono estetici, ma quindi fondati nel sentire che abbiamo in comune, ma la loro esposizione politica è evidente, non analogica, come Elena sottolinea con forza, è nel dispositivo stesso del giudizio estetico che si manifestano queste aperture al politico, non sono posticce, sono interne. Tant'è vero che in un passo più avanti, molto interrogato da Hannah Arendt, nel paragrafo 40 della critica della facoltà di giudizio, Kant il Gemeinsinn non lo chiamerà più senso comune, ma lo chiamerà, giunto a quel punto, senso della comunità, della Gemeinschaft, che non è esattamente la stessa cosa, o meglio, è un modo di riformulare lo stesso pensiero tematizzando la comunità, il senso della comunità. Tengo conto del giudizio possibile di ciascun singolo giudicante, anche se sembrerà, dice Kant, un'operazione particolarmente complicata, nel momento in cui produco il mio giudizio. E il giudizio politico dunque può prendere a modello, diciamo così, il giudizio estetico, qualcosa di più, può prendere a modello perché è una fattispecie del giudizio estetico, non soltanto qualcosa di analogico. Modello di che cosa? Di imparzialità, di pubblicità e di, questo è l'aspetto politicamente più forte, che va anche nel senso indicato da Giacomo come una carenza, di anticipazione del possibile. In tal caso il giudizio perderebbe quella caratterizzazione del tempo passato a cui tu hai fatto riferimento. Sarebbe piuttosto invece un giudizio per ciò che è avvenire, per la comunità che viene, per usare un termine, un titolo di un libro. Dunque, fin qui la questione del giudizio nel quadro kantiano, che ne consente la declinazione politica e che Arendt mette magnificamente in evidenza nelle lezioni sulla terza critica, quelle che in Italia recano il titolo di teoria del giudizio politico. Ma sorge qui un problema cui naturalmente ha già fatto cenno Giacomo Marramao nella sua introduzione, un problema sul quale io credo che Elena Tavani impegni un mirabile e potente sforzo di chiarimento, cioè che passa per molti canali. Cioè il fatto è, vengo alla questione del chiasma naturalmente che ha anticipato Giacomo, il fatto è che il giudizio estetico sembrerebbe un'operazione interamente saturata dalla posizione spettatoriale, interamente saturata dalla posizione di chi giudica dalla buona distanza, naufragio con spettatore, tu hai richiamato Blumenberg prima, quella è la posizione, tra l'altro c'è anche un richiamo esplicito al famoso poema oraziano in una parte del Sublime, devo stare al sicuro per poter osservare lo tsunami come oggetto di un giudizio riflettente, perché se sta uno tsunami devo scappare, o devo salvare qualcuno, per esempio, fare azioni eroiche o cose del genere. Quindi sembrerebbe che il giudizio rischi di essere, l'operazione del giudizio di cui sono evidenti queste sporgenze politiche, l'operazione del giudizio estetico di cui sono evidenti queste sporgenze, sia interamente saturato dalla posizione dello spettatore e non se ne vedrebbero immediatamente, perché con le mediazioni necessarie si vedranno benissimo, come ora dirò, le connessioni con la sfera dell'azione. che per Arendt è appunto la prestazione più alta dell'uomo, dell'animale umano, ciò che fa di lui appunto un animale politico, l'azione. Allora, il dispositivo concettuale con cui Elena affronta questa questione è stato già enunciato da Giacomo Marramao. È il chiasma, gioco di sponda, lo definisce in altre occasioni Elena, tra azione e giudizio. Chiasma, gioco di sponda, tra azione e giudizio. Vorrei mettere in evidenza di questo chiasma cinque aspetti teorici, salienti, ciascuno dei quali meriterebbe un approfondimento, che non possiamo fare qua, provo a metterli in fila. Primo aspetto, nel giudizio in quanto tale c'è un elemento performativo, che si fa più chiaro se noi ne mettiamo in evidenza del giudizio il suo carattere linguistico e pubblico. Cioè non è un giudizio che io vivo internamente, è un giudizio che io pronuncio. Questa parola pronunciare giudizi è un'altra parola che, se uno va sulle ricorrenze che noi oggi possiamo vedere statisticamente sui testi, Kant si preoccupa di far ascoltare spesso il suo lettore. E cioè, in che modo costui si trova in questa condizione? Ci si trova per il diritto che si dà di pronunciare un giudizio. Pronunciare è qualcosa che ha a che fare con è un atto linguistico. È un atto linguistico, performativo qui non nel senso tecnico. Cioè il giudizio non performa nel senso del performativo ostiniano, non realizza la cosa di cui predica, ma è una forma di azione, è un modo di agire, è un modo di agire. Quindi, primo elemento, questo carattere linguistico e pubblico, performativo dunque, il giudizio è un giudizio pronunciato, un atto linguistico pubblico, un atto linguistico pubblico che richiede questa esposizione, o parresia, cioè parlare, prendere posizione, sapete quanto è importante per Kant prendere posizione. Secondo punto, qui ci avviciniamo di più a un tema che fin qui, stranamente, ma mica tanto, è stato fuori da tutto quanto avete già ascoltato. Ma come, l'estetica non ha a che fare con l'arte? Qualcuno nella sua mente avrà prodotto questo interrogativo. Qui cominciamo ad avvicinare. Questo carattere performativo e pubblico si rafforza nel caso di giudizi innovativi su casi complessi. Su casi complessi. Qui, infatti, in un caso complesso, il senso comune non viene solo presupposto, cioè per pronunciare il giudizio devo presupporre il senso comune, ma il pronunciare il giudizio ha anche l'effetto di riorganizzare il senso comune, formarlo, riorganizzarlo. Qui Kant lo dice con grande forza in un passo che Elena ha presente e che richiamerò più avanti, perché ancora non sono arrivato al grado di specificità nel quale lo posso richiamare. Si tratta però per eccellenza del giudizio riflettente osservato sotto il profilo di quella capacità di cambiare le regole di cui dicevo prima. Per esempio del giudizio innovativo che cambia una regola, quando si tratta di cambiare una norma o di istituirne una del tutto nuova. L'azione innovativa, qui l'esposizione politica è assolutamente palmare, insomma, no? In che modo il legislatore, qui mi sposto nel versante politico in senso stretto, tiene conto del giudizio di tutti gli altri. Fino a che punto può spingersi nel considerare la sua proposta nei limiti della ragione? Ma i limiti della ragione stanno scritti da qualche parte? No, i limiti della ragione sono qualcosa che viene rimesso in discussione. Se voi pensate un attimo solo alla bioetica, vi rendete conto che avete un materiale immenso per questo, oppure alla normazione delle unioni di fatto dei figli degli omosessuali e così via. Fino a dove il legislatore può spingere? E qui, appunto, e il carattere performativo è evidente, si tratta di rule changing creativity, politica, ma si tratta anche di qualche cosa che, appunto, deve tener conto del giudizio degli altri. Il diritto di visita, come diceva con una bellissima formulazione Hannah Arendt, nella testa degli altri, più che rovesciando il diritto, il dovere di accoglienza. Il tema dell'immaginazione con cui concludo. Allora ne ho detti due. Terzo, questo carattere performativo, ecco un altro termine importante che meriterebbe una discussione, bisognerà farla. Questo carattere performativo pubblico e innovativo del giudizio si raccoglie in modo perspicuo nel concetto dell'esemplarità, a cui Elena dedica pagine importanti. Vale a dire, anche polemizzando con autori, nella fattispecie con Ferrara, a cui, che ha dedicato studi notevoli a questo tema. Che cos'è l'esemplarità? Cioè, è il singolo caso contingente, la singola azione contingente, che ha la forza di istituirsi in regola. Ecco dunque la questione dell'opera d'arte. Perché felice punto di innesto della questione dell'opera d'arte e della sua specifica politicità in questo filo conduttore, perché l'opera d'arte è precisamente un evento del tutto contingente, non dovuto, non è dovuto. L'infinito di Leopardi non è dovuto, è contingente, è capitato, che però ha la forza di istituirsi in regola, di riorganizzare il nostro senso comune, nel senso kantiano della parola, non il senso comune nel senso di buon senso, sto dicendo. Qui è Elena, qui difende una tesi che io condivido integralmente. E cioè, nella polemica con Ferrara, se non sbaglio, con Alessandro Ferrara, e cioè che... È sempre bene chiarire. Con Giuliano Ferrara non credo si possano fare polemiche, è questione di nemico-amico, era l'altra faccia del politico che tu richiamavi prima. Cioè... una tesi che condivi quando distingue Elena, articolando pensieri di Kant e di Hannah Arendt, tra esempio, quindi ho parlato di esemplarità, l'opera d'arte è tipicamente questo evento contingente che mira a istituire se stesso come modello, come regola, Elena molto opportunamente distingue tra esempio e modello, cioè tra un'esemplarità tipicamente, qui parliamo proprio dell'arte, tipicamente autonoma e riflessiva, che vuol dire autonoma, che l'opera d'arte è capace di darsi la regola da sola e dimostrarsi così congruente, questa è la tesi di Ferrara, così congruente da motivare con questa congruenza la sua ambizione normativa. Cioè l'opera d'arte si dà la regola da sola, è autonoma, mostra esemplarmente il movimento di questo darsi la regola, e si interroga riflessivamente sul prodursi di questo movimento. Secondo le parole del nostro maestro Emilio Garroni, l'opera d'arte è moderna, è autointerrogativa, siccome l'estetica è autointerrogativa pure lei, è una filosofia non speciale, diceva Garroni, proprio per questo, per un breve periodo, l'opera d'arte e l'estetica si sono incontrate, poi dopo si sono dissociate, altre cose servono oggi per farle rincontrare, su questo delle idee, ma non le posso esprimere qua. Vedete, allora, un'esemplarità riflessiva, vale a dire che l'opera mostra la sua autonomia, si interroga su questa e la mette anche in discussione, questa è una forma di esemplarità. Ma l'altra esemplarità è quella che io chiamo, non Elena, pragmatica, Elena lo chiama modello con le parole di Kant, Muster nelle parole di Kant, non Beispiel, un'esemplarità che non mi porta tanto a riflettere sulle condizioni del giudicare, come nel caso riflettente, diciamo così, ma mi dà indicazioni vere e proprie, che sono relative, diceva Kant, alla riorganizzazione della facoltà di giudicare. Questo è ciò che Kant dice per l'opera di genio. L'opera di genio dice, benché non nata da imitazione, quindi originale, autonoma, autonoma, deve essere anche esemplare, cioè fungere da modello, cioè servire agli altri. Chi sono gli altri? Tutti gli altri giudicanti, tutti gli altri giudicanti, la pluralità di giudicanti come misura e regola del giudizio, cioè per rinnovare la facoltà di giudicare. Vedete, è in gioco qualcosa di diverso dalla pura riflessività. Sono in rapporto reciproco i due elementi, però nell'esemplarità modellizzante l'aspetto performativo giunge al suo più evidente. Non c'è più quella difficoltà registrata all'inizio, per cui il giudizio rischiava di essere percepito come tutto saturato dalla condizione della buona distanza. No, qui stiamo proprio in una prassi, siamo nella praxis. Ancora un paio di cose, salto il mio ultimo punto, che era sulla biopolitica, come ti puoi immaginare, però lo riprendo perché un po', insomma, non vorrei prendere spazio, ma se abbiamo tempo ci torno. Altri due punti, perché ve ne avevo promessi cinque, ne ho detti tre, della questione del giudizio. Allora, di questo carattere modellizzante dell'esempio, ho detto c'è l'esempio esemplare riflessivo, quello che piaceva al nostro maestro, ma questo modellizzante invece è più performativo, sta più coinvolto nella praxis, è più politico. Di questo carattere modellizzante, ma questo l'ha già detto a modo suo, dalla sua prospettiva, Giacomo Marramao, non andrà sottolineata in nessun caso l'incorporazione in un artefatto stabile, in un'opera d'arte. A questo serve, dice Arendt, naturalmente, è la funzione monumentale dell'opera su cui assai approfonditamente discute Elena Tavani. È la funzione monumentale che serve a non disperdere, no? L'azione è volatile, no? Finisce con il suo accadere. Il concetto di arte monumentale che Arendt utilizzò sempre di preferenza in ogni caso rispetto ad altre forme di arte moderna, come proprio le forme performative, credo non senza ragioni, devo dire, se vuoi sapere la mia, non senza ragioni a dire la verità. Quindi non è tanto la sua incorporazione di questo carattere modellizzante dell'esempio, non andrà sottolineata tanto la sua incorporazione in un artefatto, che pure serve, cioè è ciò che consente alla cultura dell'Homo Faber di produrre continuità, di non dissolversi, ma ecco il punto, la sua connessione con l'immaginazione. Non tanto il precipitare in un artefatto, ma il suo connettersi con l'immaginazione, che è il vero versante specificamente produttivo del senso comune, anche e soprattutto nella sua accezione politica. Cioè immaginare soluzioni normative innovative mettendosi al posto degli altri e figurandosi il mondo comune così come vorremmo abitarlo insieme, così come potremmo abitarlo insieme. L'immaginazione. Ultimo punto di questa declinazione del chiasma, di quello sto parlando. Attenzione, appunto, il giudizio non è qualcosa che si chiude nella posizione spettatoriale dello spettatore del naufragio, ma si mette in gioco a vari livelli. L'ultimo punto è questo dell'immaginazione, che mette a sua volta in evidenza, devo dire che questa serie di osservazioni di Elena sono nuove per me e non ci avevo riflettuto prima, è lei che mi porta a riflettere su questo, un'ultima decisiva declinazione della condizione spettatoriale, non solo come condizione necessaria per ogni progettualità, e qui vedi, ritorna la faccenda del futuro, su quanto tu rilevavi prima, quindi c'è un cortocircuito da qualche parte, quindi non solo come condizione necessaria per ogni progettualità, ma anche come garante, la spettatorialità, come garante ultimo della critica e del dissenso. È proprio la condizione spettatoriale che vedete di quante componenti si carica in questo chiasma, come lo chiama Elena. Beh, allora io direi che appunto questo è uno dei modi in cui noi possiamo perlustrare il grande lascito. Il Denktagebuch è leggibile da un po' a questa parte, molte cose di Hannah Arendt sono uscite e possiamo immaginare a nostra volta, insomma, prendere in carico noi di immaginare come avrebbe costruito la terza parte conclusiva del suo grande libro incompiuto. E appunto mi vorrei fermare qua perché ho un po' di osservazioni sul biopolitico che temo che mi prenderebbero più tempo di quanto in questo momento sia giusto che io ne prenda, però mi riservo di tornarci un attimo se il discorso ci porterà in quella direzione. Bene, grazie Pietro. Ora do la parola a Laura Boella, che nel 1995, se ben ricordo, ha pubblicato per Feltrinelli una bella e importante monografia su Hannah Arendt. E dopo di allora non ha smesso di scrivere e leggere. Hannah Arendt, sì, farò un intervento da vecchia arendtiana, però vecchia arendtiana che non si è mai allineata né allora né adesso con il senso comune arendtiano, che pure domina e imperversa molto spesso. E allora, da vecchia arendtiana, devo dire musica nuova in casa Arendt, il libro di Elena Tavani. Effettivamente suona una musica nuova in una casa arendtiana molto affollata e forse non sempre ben frequentata. Perché musica nuova? Perché si tratta di un testo, e adesso appunto da vecchia arendtiana vado anche un pochino al sottotesto di questo lavoro, di nuova generazione dovrei dire, cioè molto molto diverso, no, dalle monografie, insomma, comparse non solo in Italia, ma direi soprattutto in Germania, meno in Francia. Sull'Arendt salta a pie pari alcuni canoni ormai diventati abbastanza desueti, no, della lettura dei testi arendtiani. Per esempio la lettura di Vita Attiva è una lettura ormai lasciata completamente alla convenzione. Invece in questa porta di accesso data appunto dall'estetica, Vita Attiva insomma rinasce a nuova vita. Se notate poi negli ultimi anni, soprattutto nel 2006, non so, nel centenario della nascita, l'unico testo arendtiano chiosato all'infinito era il totalitarismo, no? Cioè una visione chiaramente interessante, importante, ma sicuramente insomma non esaustiva di tutta la complessità del pensiero di Hannah Arendt. Soprattutto poi finalmente sono dissipate le ombre in cui heideggeriane, dello Heidegger più stereotipato, no, che offuscavano il pensiero di Hannah Arendt. E direi fondamentale proprio l'apporto di questo testo difficilissimo, secondo me comunque molto utile, il Denktagebuch. Effettivamente stanno adesso, per esempio in Germania, fortunatamente ci sono alcune studiose in particolare che stanno lavorando moltissimo in maniera molto nuova su Vita Attiva, per esempio nelle due edizioni inglese e tedesca, che sono diversissime, ma non come pura filologia accademica, ma proprio per arricchire un quadro, come già detto, stereotipato dell'Arendt. E queste nuove letture, che finalmente sono anche letture critiche, si alimentano anche enormemente del Denktagebuch, che è ottimamente usato in questo testo di Elena Tavani. Allora, da che punto partono questi nuovi studi sull'Arendt, di cui appunto quello di Elena Tavani, o questa nuova generazione di studi? Partono proprio dalla fine, insomma, del monopolio disciplinare del pensiero di Hannah Arendt, che è stato esercitato soprattutto in Italia dal raggruppamento disciplinare appunto di filosofia della politica o teoria politica, no? Qua proprio viene, fin dal prologo, viene ribaltata questa ottica. La Arendt politica non è monopolio dei teorici della politica o dei filosofi della politica, ma è qualcosa di molto più ampio e molto più, anche dal punto di vista teorico, più interessante. E quindi io dov'è che poi ho visto gli aspetti più promettenti di questa nuova e molto impegnativa lettura, in effetti? Li ho visti proprio nel, ecco, puntualizzo poi uno o due aspetti, ma probabilmente bisognerebbe poi andare anche molto più a fondo. Intanto sappiamo che un'altra delle koinè arendtiane è quella che vita attiva e poi vita della mente, la biografa Jan Brühl e poi tutti coloro che hanno diciamo seguito queste piste, la vita della mente, l'Arendt che ritorna heideggeriana, che ritorna alla sua gioventù e che Desenectute, no? Era proprio la parte della biografia di Jan Brühl dedicata a vita della mente, negli ultimi anni insomma si tranquillizza dopo le grandi polemiche sul caso Eichmann e ritorna alla dimensione del pensiero, della vita contemplativa. Ora tutto questo non regge, non ha mai retto. Insomma, per chi leggesse con un minimo di attenzione i testi arendtiani. E io sono veramente molto d'accordo con Elena Tavani sul fatto che il tema di fondo di Arendt è il tema dell'agire. Ovviamente, e qui tu forse un po' distrattamente hai ancora usato la coppia teoria-praxis, ma Arendt non è mai stata dentro questa coppia, mai, ma né da giovane né da vecchia. Cioè per lei la coppia o l'antinomia teoria-praxis non esiste. Per lei, al contrario, esiste una domanda di fondo: che cosa facciamo quando agiamo, che cosa facciamo quando pensiamo e poi eventualmente anche quando giudichiamo. Ovviamente questo che cosa facciamo non è praxis proprio per niente, ma è una forma di agire che lei qui con alcuni diciamo punti forse di interruzione, comunque con grande sforzo e grande tenacia, lei tenta di ricostruire proprio perché sono pezzi da rimettere insieme, quelli che io chiamerei, ho chiamato anche più volte, una ricomposizione dell'esperienza, no? Sostanzialmente è questo. Quindi è già stato più volte evocato il chiasma giudizio-azione, anche qua cade un altro stereotipo delle letture convenzionali di Arendt, sia a partire da Beiner, che parlava di due teorie del giudizio in Arendt, che viene sistemato direi abbastanza rapidamente in una nota, ma la teoria del giudizio c'è chi, soprattutto in Germania, ne ha fatto una teoria appunto, e quindi un'ennesima diciamo dottrina, cosa del tutto estranea al temperamento arendtiano, o chi invece ha continuato a interrogarsi: ma il giudizio è cognitivistico, quindi l'Arendt rimane una cognitivista piuttosto che è una funzione pratico-attiva, quindi non so, etico-pratica, e nessuno mai si è ben deciso su questo, che era uno dei tanti modi di ridurre la questione ai minimi termini. Elena Tavani giustamente invece reinterpreta o va molto avanti, direi, sviluppa una insomma considerazione purtroppo interrotta dalla morte precoce di Hannah Arendt, ma le sviluppa con molta decisione proprio in direzione di un rapporto fondamentale tra azione e agire, nel senso che dicevo prima, come prospettiva di ricomposizione dell'esperienza nei suoi diversi aspetti, e forza o capacità di giudicare. E il punto che veramente proprio anche personalmente ho trovato particolarmente innovativo nel lavoro di Elena Tavani è quello per cui il venir, cioè lo smontare l'antitesi vita attiva, vita contemplativa, attraverso quale dispositivo passa? Attraverso l'emersione di un tema che era lì probabilmente sotto gli occhi di tutti, ma che credo ben pochi abbiano avuto il coraggio di affrontare con decisione, cioè il tema della vita, no? Che occupa direi la seconda parte del testo, del libro, ma è veramente una emergenza densa di spunti e di suggestioni. E a questo proposito allora aggiungo alle riflessioni che facevo prima questo libro, un libro di nuova generazione, anche perché è un libro che interloquisce con i veri interlocutori, gli unici forse veri interlocutori dell'Arendt, per quanto spesso anche un po' dissidenti, i francesi, cioè gli unici secondo me che hanno colloquiato, interloquito insomma da pari a pari con l'Arendt, spesso anche diciamo bastonandola per bene, cioè, ma con la, diciamo, la sincerità che c'è tra persone che si pigliano sul serio, sono stati Derrida, Lyotard, cioè soltanto in Francia noi troviamo un autentico dialogo, adesso ancora Etienne Tassin per esempio, no? Che, il cui libro a me piace moltissimo sull'Arendt. L'altro genere di esegesi arentiana in fondo è rimasta molto indietro, quindi insomma è anche questo un elemento che è una mia ipotesi, probabilmente ha facilitato l'emergere di questo tema della vita, perché è vero che l'ultima opera arendtiana si chiama Vita della mente, vita attiva, ma nessuno mai insomma si è interrogato su questo, sull'emergenza di questo termine. E effettivamente questo poi è il capitolo sull'umanismo, è molto legato anche alla ridiscussione di questo tema della vita, se l'umano o l'essenza dell'umano debba essere definita distinguendola dalla vita nel senso naturalistico del termine, o se invece la posta in gioco, anche con alcune difficoltà arendtiane, non sia una nozione di vita più complessa, no? Non soltanto appunto legata alla logica binaria, natura, cultura, oppure anche passività, attività, perché dal lato almeno delle persone che mi sono più vicine e amiche, io ho sempre sofferto, perché ne ero io per la destinataria principale, dell'obiezione, insomma tutta sta vita attiva e la vita passiva, un'obiezione che non veniva solo da fenomenologi doc, ma veniva anche per esempio da pensatrici interessate al pensiero di Hannah Arendt. Cioè l'Arendt, con questo diciamo pathos dell'interruzione, della novità, del potere di iniziativa, trascurerebbe il corpo, e quindi qui tutta la tematica dell'estetica potrebbe anche diciamo pronunciarsi sull'argomento, il corpo, la sensibilità e poi la famosa anche famigerata passività. Ecco, anche se non è, probabilmente Elena Tavani non è mai stata, diciamo, attaccata su questo piano, non ha questo tipo di esperienze polemiche e quindi non lo tocca direttamente il problema, però nel momento in cui lei tratta la questione della vita è molto facile trovare, si può benissimo trovare una risposta a questo problema. In fondo Arendt lavora costantemente su dimensione della vita. La vita non è solo il lavorare e quindi il riprodurre il ricambio organico, no, dell'uomo con la natura, ma vita è anche pensiero. E per esempio, alla luce proprio delle considerazioni che lei fa sul pensiero come forma della vita, si potrebbe rileggere per esempio il saggio molto noto su Heidegger, dove appunto l'Arendt in maniera molto acrobatica ed equilibristica salva, tra virgolette, Heidegger in che modo? Proprio dicendo per lui il pensiero è stato la vita, e poi usa metafore che sono le stesse usate quando parla di vita a livello di processo, no? La tempesta del pensiero e poi l'occhio del ciclone, no? Allora chi prende dimora nel pensiero è colui che, sballottato dalle tempeste del pensiero, poi si ricava quell'angolo di quiete all'interno appunto del movimento più frenetico. Quindi è giustissimo vedere insomma questa vita che vive, altra diciamo citazione che ricorre in queste pagine, la vita che vive attraverso nell'animal laborans, ma anche nell'animal razionale. Ecco, queste sono veramente osservazioni molto illuminanti, rispetto alle quali allora la ricerca rentiana del senso non biologico della vita, ecco, questa ricerca merita diciamo di una attenzione supplementare, perché allora non è che la vita attiva, quindi il potere di iniziativa, l'esposizione sulla scena del mondo, l'essere visti e sentiti, diventi una completa, diciamo, alternativa alla riproduzione, appunto, alla vita passiva, alla corporeità, alla differenza dei sessi, che peraltro la differenza dei sessi c'è, secondo me, per quanto con molto, diciamo, riservo, però c'è nell'Arendt. No, tutt'altro. L'Arendt lavora in maniera molto meno convenzionale, parlando al contrario di un movimento di attivazione della vita, o di direi anche intensificazione della vita. Tra l'altro proprio Ferrara cita nella quella espressione, che però Ferrara interpreta in maniera neoristotelica, della critica del giudizio, dove si parla proprio di Verlebendigung des Lebens, no? Quindi, che è contestuale poi al tema anche del giudizio, ma attivazione della vita. Quindi c'è tutto il movimento, una processualità con ricadute poi, no? Perché anche quando la processualità viene interrotta dal novum, ecco, c'è poi la possibilità che il novum venga reinserito in una specie di fluire vitale. Ma proprio questo è il senso proprio di quell'agire che è il centro del pensiero arentiano e che dovrebbe in prospettiva permettere una ricomposizione dell'esperienza. Mi sento di aggiungere che proprio perché stiamo parlando di giudizio, allora questa vita che se vive, se è vivente e non paga il prezzo di una totale, diciamo, cesura rispetto alla corporeità, rispetto anche al mondo animale e anche al mondo non umano, ma al contrario si inserisce in un processo di intensificazione. Processo di intensificazione che poi riveste le forme che sono state ricordate prima, cioè quella dell'interruzione, del prendere posizione, dell'interlocuzione, no? Che sono tutte le forme anche di resistenza, di dire di no, di fare il contrario, che poi sono le forme anche della politica rentiana. Allora mi permetto di ricordare il fatto che quando Arendt parla di giudizio, non propriamente nelle lezioni su Kant, ma nei saggi, in qualcuno dei saggi raccolti in Tra passato e futuro, lei parla di un rapporto attivo con la verità, con la bellezza e con la giustizia, che indicano che cosa? Una forma di, che io chiamo, ho chiamato anche, di fluidificazione di questi assoluti, no? Il giudizio cos'è? È un sottrarre, diciamo, l'azione o l'evento al rapporto verticale. Allora, non so, quella Costituzione realizza la giustizia in terra, oppure quell'opera d'arte è l'incarnazione della bellezza, quell'idea filosofica è l'incarnazione o la rappresentazione del vero. Lei sottrae a questo rapporto verticale il giudicare, il giudizio, e al contrario un rapporto attivo con questi assoluti che li rifà, li rimette in circolo nella vita, quindi che permette agli assoluti di intensificare o attivare la vita, di renderla vivente, ma al contrario impedisce che diventino morti, sostanzialmente monumenti oppure dottrine oppure ideali, giustizia, umanità, disumani o diciamo sovraindividuali. E ricordo a questo proposito insomma il tema dell'amicizia, che in Arendt è costantemente legato alla verità e alla bellezza e anche alla politica, no? I saggi che io ritengo filosoficamente molto importanti di Men in Dark Times sono tutti saggi in cui poeti, insomma scrittori e anche filosofi sono riportati ad una umanità viva, vivente, proprio perché vengono considerati alla luce del nesso di verità e amicizia. Ma leggevo proprio qualche giorno fa il carteggio che è appena uscito in Germania tra Scholem e Arendt, un carteggio veramente molto molto scabroso, in cui i due litigano in maniera quasi irreparabile già nel 1946, e poi si chiuderà il loro rapporto durante il caso Eichmann. Ebbene, già nel 1946 i due sul sionismo riconsiderato proprio si trovano su posizioni completamente divergenti, e Arendt, Scholem le chiede, devi fare pubblica ammenda di queste tue idee, insomma, sbagliatissime, eccetera. Lei ovviamente non cede e risponde: ricordati che noi rimaniamo su due posizioni completamente divergenti, ma io ci tengo alla permanenza della nostra amicizia, che ancora una volta era gestire attivamente un processo, in questo caso vitale, cioè un dissenso, una tensione, un conflitto, rimettendolo in circolo senza lasciarsi divorare dagli assoluti. Quindi la mia, come voi avete potuto ascoltare, cioè, la mia lettura è molto positiva di questo libro. Lo ritengo un libro molto impegnativo, molto complesso, però è estremamente anche promettente se continueremo a occuparci di andare. Bene, no, grazie Laura. Volevo soltanto precisare che mi è ben chiaro che in Arendt non c'è una antitesi praxis teoria. Il passaggio in cui avevo introdotto quell'aspetto era un passaggio dove forse mi sono spiegato male, ma era un modo di polemizzare con una maniera convenzionale in cui si tende a contrapporre the human condition, che sarebbe primato della praxis, e the life of the mind, dove invece affiorerebbe invece un'apertura alla dimensione teorica o contemplativa. Invece io ritengo appunto che non ci sia assolutamente questa, questa antitesi in Arendt, che ci sia invece, come tu dicevi, il tema cos'è che facciamo quando pensiamo e che cosa facciamo quando agiamo. C'è un continuum da questo punto di vista. No, sono assolutamente d'accordo. Come sono d'accordo anche su quello che tu hai detto, che il confronto più intensivo e anche appassionato con le tesi arentiane, con l'impostazione arentiana, è avvenuto più in Francia che in Germania. Secondo me, più in Francia che in Germania. Assolutamente d'accordo con te. Elena, sì. Siamo ansiosi di ascoltarti. Allora sì, a proposito di Lyotard e di questo rapporto poi non facile, no? Mi viene in mente la definizione che dà del pensiero di Hannah Arendt di un pensiero salutista, no? Quando va a commentare così le posizioni arendtiane a proposito della promessa e del perdono che in realtà Hannah Arendt inserisce proprio dentro una dinamica di un dispositivo politico, eh? Però insomma promessa e perdono evidentemente poi suonavano a Lyotard, all'orecchio di Lyotard come sì, così. La consideravano un umanista, però secondo me, nonostante questa critica, l'hanno presa molto sul serio. Infatti. Allora, io vorrei ringraziare intanto tutti e tre i relatori per così aver così smussato, no? Poi forse quelli che erano le parti e gli angoli più ostici di questo libro, che senz'altro. Io soffro un po' quando mi si dice un libro complicato, però insomma evidentemente lo è, e quindi e che hanno messo in evidenza varie questioni. Io ecco, per esempio, a Marramao ecco, lo ringrazio di aver messo subito in evidenza il fatto che appunto questo spettacolo del mondo, no? Questa spettacolarità non ha a che fare, no? Con un'estetizzazione che è appunto la spettacolarità anche della politica in senso negativo, che tra l'altro Hannah Arendt non solo aveva ben presente, ma utilizza come categoria politica, per esempio quando proprio si occupa del processo Eichmann e accusa Ben Gurion di fare un processo spettacolo, oltre che di essersi accordato insomma con Adenauer eccetera, insomma su varie questioni. È stato naturalmente il passaggio produttivo e anche esistenziale della vita di Hannah Arendt più difficile, no? Quello legato a questo libro e alle sue tematiche. Ecco, invece Hannah Arendt credo sia così interessante anche per le ingenuità che ci propone, cioè lei in questo senso quindi salta a pie pari. Da una parte salta a pie pari in questa sua ricerca del politico legato appunto all'inizio, alla capacità innovativa dell'agire e anche alla possibile innovatività del giudicare che metteva in evidenza Pietro Montani. E quindi salta a pie pari tutto quel, insomma, tutto il discorso poi amministrativo gestionale, no? Cioè il fatto che poi il politico è anche gestione degli uomini, e quindi c'è tutto questo, e anche istituzione, c'è come sullo sfondo questa polis che è anche istituzione, perché Hannah Arendt sa bene che le identità e le libertà, come adesso credo si possa dire rispetto alle tematiche che riguardano insomma c'è questo concetto poi di pluralità, no? Di Hannah Arendt, che mette insieme eguaglianza e distinzione. Ora, lasciando da parte la pluralità, quindi questa dizione arendtiana, però insomma noi con eguaglianza e distinzione ci confrontiamo continuamente. Le differenze, le culture, cosa fare, no? L'Occidente, il passaggio Occidente che senz'altro c'è, ma nello stesso tempo lotta con tantissime resistenze e anche con, credo, c'è una riflessione di Amartya Sen a questo riguardo, adesso non mi ricordo dove onestamente, forse un articolo insomma che è scritto su un giornale, che riflette sul fatto, allora parliamo al plurale delle libertà, quindi è importante anche stabilire non una libertà unica, ecco Hannah Arendt in questo senso è monolitica, no? A lei interessa la libertà politica come possibilità di agire, anche se poi questa possibilità di agire è dello scienziato, è dell'artista, insomma è di tutti coloro che riescono a iniziare processi, così si esprime Hannah Arendt. Ma ecco, Amartya Sen, che è un economista, insomma che tutti conoscono, ma anche un filosofo senz'altro, gli si può attribuire questa qualifica, ecco, si preoccupa di queste libertà al plurale, proprio come scelte di stili di vita. E sembrerebbe così all'inizio sostenere una sorta di multiculturalismo in senso lato, però in realtà man mano che va avanti con il suo ragionamento si capisce che il problema delle differenze, quindi delle identità differenti, delle possibili, quindi anche scelte di vita differenti, culturali, religiose, eccetera, sono possibili quando la condizione dell'eguaglianza, quindi in qualche modo quando la polis consente questa immersione. E quindi l'azione in questo senso di Hannah Arendt, secondo me, è un concetto prezioso anche come esito finale della lotta per il riconoscimento, perché in qualche modo poi Hannah Arendt ci porta a pensare a questo inizio, appunto come un inizio, giustamente, insomma ci porta più a pensare a un'interruzione della continuità, insomma a un effetto dell'azione visto dal di fuori, no? Un effetto visto da parte dello spettatore. Ma se noi ci mettiamo anche un po' ogni tanto, leggendo Hannah Arendt, dalla parte dell'attore, capiamo come questo agire è anche dirompente, nel senso che porta all'emersione delle identità e i riconoscimenti. Questo per dire che eguaglianza e differenza, queste due nozioni che Hannah Arendt cerca di tenere insieme in questo concetto di pluralità, che è alquanto sfuggente, secondo me, e che poi viene trattato abbastanza diversamente in vari luoghi da Hannah Arendt, è una delle tematiche, ecco, che sono pressanti, insomma, che ancora oggi, con cui ancora oggi noi ci dobbiamo confrontare. E, ecco, volevo Marama, volevo chiedere una cosa che non trovo, però adesso sì, ci arriverò. Ecco, hai ragione, senz'altro. Lei pensa a questo, cioè non direi che non tematizza la politica come evento, perché in qualche modo l'inizio è un evento, non evento che esprime un kairos, che esprime una decisione che è proprio quella, insomma in qualche modo l'idea di Hannah Arendt di inizio e di evento è un po' più anarchica. È un po' più, insomma, le interessa forse ancora di più, piuttosto che una risposta a tempo debito, questo elemento di rottura di continuità. E in questo senso non sono sbagliate alcune obiezioni, no? Che sono state mosse anche da Alessandro Ferrara a proposito anche dell'esemplarità, e cioè questo esempio, poi però chi è che decide, cioè come fare ad acquisirlo come un esempio positivo, tra virgolette, per i valori democratici, per i valori dell'eguaglianza, ecco, allora lì no, si apre un po' un fronte di coloro che, secondo me in modo inopportuno, però insomma chiedono di inserire dentro questo discorso comunque un elemento di normatività di tipo più morale che politico, e laddove invece probabilmente in Hannah Arendt sono leggibili dei fili, insomma dei principi che però sono e vogliono essere specificamente etico-politici e che quindi guardino quasi ossessivamente a questo elemento della pluralità, a questo elemento poi della dell'espressione anche delle differenze. Un'altra cosa volevo chiedere a Giacomo, ma adesso io ci arriverò. Beh sì, in effetti in realtà ha già risposto Pietro Montani, ecco, questo guardare al passato del giudizio è un po' così, un po' troppo schematico, e quindi forse si riferisce di più a quell'idea poi di storia, no? Di narrazione che è anche presente in Hannah Arendt. Però il piano del giudizio è molto più potente di questo piano poi di lettura di ciò che è stato, e quindi anche di attesa che finisca, perché se aspettiamo sempre che finisca, allora davvero il kairos, no? Non possiamo più coglierlo, ecco, tutto qua. E poi Pietro Montani, mi sembra importante questa considerazione che fai sulla riconfigurazione del senso, cioè il fatto che poi il giudizio in questa sua capacità performativa, certo un po' si presta, no? L'accento sulla performance che Hannah Arendt utilizza sia per l'azione che soprattutto per l'agire, in realtà si presta a quella critica, no? Secondo cui poi sembra che si tratti di una sorta di happening continuo, cosa a cui purtroppo peraltro siamo anche abituati. Questo aspetto performativo del giudizio e la portata innovativa che ha è proprio un qualcosa che nell'esemplarità poi può diventare una riconfigurazione del senso, anche se poi appunto non dovremmo forse intendere del gusto, no? Nel senso di gusto politico, perché questo ci porterebbe forse a delle così insomma, Non l'ho mai usata la parola. No, non l'hai usata, però poi a proposito del genio no, sarebbe stata anche sì, certo, certo. Ma l'immaginazione, ecco, a questo riguardo. Sì, sì. Ecco, l'immaginazione, questo elemento del, ecco, il pensiero rappresentativo, no? Hannah Arendt ci porta un po', cerca di portarci verso un modo di pensare che non è appunto che evita la reductio ad unum, eccetera, eccetera, però anche che evita quella retorica dell'umanismo, quindi quell'idea dell'umanità, che noi, e quindi anche dei diritti umani, no? Ecco lì che tocchiamo un altro tema complicato, che Hannah Arendt esclude. Possano essere considerati dei diritti naturali, e tra l'altro Lyotard da qualche parte le fa il verso, anche qui non mi ricordo dove, però dice no, non è, no, forse in un volume di Amnesty International del, insomma, curato da Amnesty del 2006-2007, sì, era quel volume lì, e dice no, insomma, non si può parlare di un diritto naturale, in qualche modo è una sorta di contraddizione in termini. E Hannah Arendt è molto chiara in questo, nel precisare come gli apolidi, naturalmente lei aveva personalmente faceva questa esperienza degli apolidi, di coloro che, sia pure da privilegiata, ma comunque coloro che erano stati privati della cittadinanza, della cittadinanza, ma comunque non impossibilitati a tornare nella loro patria d'origine. E quindi appellarsi a un diritto naturale laddove il diritto non esiste come diritto appunto civico è qualcosa di chimerico, ed è però un qualcosa che comunque si continua a fare a volte quando ci si appella semplicemente a delle ragioni morali. E Hannah Arendt, ricordo una sua frase a questo riguardo, cioè la dignità dell'uomo non colma il divario da uomo a uomo. Ecco, evidentemente nel caso di Hannah Arendt non siamo di fronte a un abisso alla Levinas, no? Per cui l'altro è comunque qualcuno di assolutamente estraneo a me, ma è certo che occorre attivare dei ponti, precisamente, insomma occorre attivare delle connessioni, e l'immaginazione che Hannah Arendt non usa propriamente come immaginazione politica, sì, il mondo che vorremmo, però appunto non nel senso della proiezione, della fantasia, ma il mondo che riusciamo a costruire costruendo ponti, insomma, ponti di relazione rispetto alle alterità. Quindi, mentre la dignità dell'uomo come principio morale non getta ponti, l'immaginazione è in grado di gettare ponti. È sempre questa immaginazione che poi appunto si mette al posto dell'altro e fa il lavoro e ci porta, insomma, a formulare un giudizio. Ecco, Laura Boel, l'attivo passivo della vita. A me pare che Hannah Arendt lo tratti nel senso proprio riconducibile a Merleau-Ponty della reciprocità, no? di percipiente e percepito, e poi che poi diventa doppia identità, no? Di attore e spettatore. Quanto al corpo. Secondo me questo non è stato mai una problematica arentiana. Non so tu che impressione hai. Il corpo è è così una veste dell'apparire, di questo apparire che però riguarda anche la mondità della vita, no? Quindi questa esibizione che riguarda il mondo animale. Non è che l'umano viene, insomma, l'apparire dell'umano, diciamo, è strumentale, può diventare strumentale e avvalersi di varie artificialità, anche tecniche, no? Di varie protesi, se vogliamo, ma. Ecco, appunto, ma perché questo per me è un aspetto interessante, per altri invece non va bene, ma lei usa veramente un linguaggio molto diverso, non soltanto per quanto riguarda gli anni 60, 70, ma anche per quanto riguarda oggi. Cioè, lei non vuol sentir parlare di inconscio, non parliamo nemmeno. Psicologia non esiste. In realtà, appunto, ma anche Gefühl, no? Anche ecco, sentimento non lo usa, ecco, cerca di non usarlo mai. Quindi ecco, anche nel senso del canto estetico, sempre Mainzin, sempre quando poi ha una lettura un pochino più affezionata e attenta, invece tutti questi temi ci sono, però formulati appunto con un linguaggio non omogeneo rispetto proprio a una tradizione o una convenzione che ci portiamo dietro, proprio per quello. Il riferimento alla vita invece dischiude, secondo me, degli spiragli importanti proprio su, se la vogliamo chiamare, sulla dimensione della passività o della corporeità. Per esempio, quando lei usa questo termine proprio a proposito di un altro dei suoi apparenti tabù, la compassione, no? Di fronte a tutte le Nussbaum che oggi ci ripropongono la compassione, lei è durissima perché ritiene che sia solo paura per se stessi, no? Allora, proprio a proposito della compassione, però lei usa questo termine fellow of suffering. E che cosa vuol dire? Che noi siamo tutti compagni di sofferenza nel momento in cui su di noi, insomma, precipitano i mali, le sventure di tipo fisico, morale, metafisico, eccetera. Ma questo essere fellow of suffering è qualcosa ancora, diciamo, di prepolitico per lei, appunto, e la vita, che lei non nega assolutamente, tutte le cose che lei dice sull'ebraismo, no? Cioè sono il fatto di essere nata ebrea, il fatto di essere nata donna, che lei proprio dice fatto, sulla base del quale, dato di fatto, ciò che non si può cambiare, quando parlava quel durissimo scambio con Elfriede, no? E dice che Elfriede la accusava perché era ebrea, bisogna dire chi è la moglie, vabbè, di la mitica moglie, l'accusa, insomma, gioca la parte dell'antisemita che lei peraltro era. Allora lei risponde a Elfriede dicendo: è inutile che noi discutiamo su questo, che ciò che non si può cambiare, con te voglio discutere di cosa sta in mezzo, no? Che è un altro esempio di sovranità, secondo me, rispetto alle contingenze della vita. Però ciò che non si può cambiare è la nascita ebraica, è la differenza sessuale, e anche gli eventi storici, e l'essere fellow of suffering, no? Ma il che vuol dire una radicale, secondo me, presa d'atto. Assolutamente, no? Che poi da questo per lei incominci un processo di attivazione o di rapporto attivo su cui tu dai delle indicazioni, secondo me, veramente importanti. Allora, questo vuol dire che è un dato su cui bisogna lavorare, certo. Si dovrebbe oggi, da gestire attivamente, su cui costruire un tipo di esperienza che non è semplicemente una pratica, certo, ma è anche un pensiero, no? Una comprensione, eccetera. Quindi più che altro la difficoltà è che lei usa un linguaggio anomalo, proprio fuori, in questo caso, completamente fuori dagli schemi di un pensiero che oggi tutti un pochino, diciamo, inconsapevolmente maneggiamo. Quindi anche lì ci vuole più lavoro, no? Per dischiudere questi aspetti un po' sotterranei del pensiero arendtiano. Mi viene in mente un flash così immaginifico che Elfriede potrebbe essere un personaggio fantastico di un film di Lars von Trier, a questo punto. Vabbè, battuta a parte, adesso quello che volevo dire proprio riguardo al tema dell'evento è un testo che, a mio parere, chiarisce molto cosa lei intendeva per processo storico discontinuo, ma di un certo tipo, che evitasse anche la puntualità e singolarità evenemenziale, è il libro sulla rivoluzione, dove lei privilegia in maniera nettissima la rivoluzione americana rispetto a quella francese, privilegiamento netto, nel senso che la rivoluzione, il processo rivoluzionario in senso proprio, quello che lei ritiene fecondo di novità importanti, non è la rottura che si è determinata nel 1789, ma il processo rivoluzionario americano. Ma perché lì? Perché lì è un processo che affonda le radici in una durata più lunga, in qualche modo, e anche in una visione del rapporto tra tradizione e modernità diverso. Questo sì, però io credo che... La cosa principale mi sembra che sia il fatto che la rivoluzione americana per lei è più politica, l'altra è più sociale, cioè l'altra è più legata a delle necessità e quindi alle... e anche il carattere di violenza che diciamo fu espresso dalla rivoluzione francese andava per Hannah Arendt in una direzione divergente rispetto alla sua idea del potere, che invece trovava poi avrebbe trovato in De Tocqueville, no, certo, proprio quest'idea, che afferma i diritti non ponendoli come l'effetto della sovranità statale, sia pure rivoluzionaria, ma li radica all'interno del processo del comune, il diritto che in qualche modo è legato alla... Che nasce dalle associazioni. Che nasce dall'associazione, era proprio questo il nodo. Ecco, ma io credo che però appunto è anche un tema in fondo che è stato anche già discusso nel pensiero arendtiano, cioè lei ha una idea di evento veramente che è completamente fuori da qualsiasi decisionismo politico, questo sicuro. Però sì, lei ha proprio un'idea fortissima di accadere, no? Cioè è accaduto qualcosa che molti traducono in termini di contingenza storica, no? D'un scotto, l'eccetas. Secondo me questa è la sua idea, proprio di un accadere, lei dice proprio letterale, no? Ed è su questa letteralità dell'accadere che molti allora hanno obiettato, ma cos'è, insomma, è una diciamo concezione forse povera, dato che appunto l'accadere può avere insomma una sequenza che precede, prepara. Invece lei effettivamente su questo è drastica. Accadono le cose, le rivoluzioni accadono, come accade il totalitarismo, accade anche eventi probabilmente meno drammatici, ed è a partire da questa nuda letteralità dell'accadere, ovvero della contingenza storica, che allora storico esistenziale, che allora secondo me parte il processo dell'attivazione della memoria, che è quindi processo della politica, processo della scrittura della storia, della comprensione storica, non so. È una fortissima idea di contingenza che può anche essere discussa. Sì, che ha secondo me assonanze varie, in parte con l'ebraismo, in parte con un certo tipo di... Marlène Zarader, una studiosa francese, quando ha scritto La dette en pensée, cioè il debito impensato, il libro su Heidegger, il retaggio ebraico e la tradizione ebraica, in qualche modo ha cercato anche di fare vedere come Arendt avesse captato questo elemento dell'impensato retaggio ebraico ed hegeliano, che si racchiude anche nella visione hegeliana di evento. D'altra parte appunto Benjamin secondo me per lei rimane comunque una fonte importantissima, certo. E l'attimo che rompe nell'accadere, se tu togli il messianismo a Benjamin come ha fatto l'Arendt, però l'Arendt su questo proprio la lacuna del tempo, esatto, no? Del tempo. Il tempo che si apre, che esplode, e la sua idea di evento è fortissima da questo punto di vista, quindi è un kairos. Sì, no, è un kairos in ogni caso, no? No, è una cosa che che va ripensata secondo me attentamente, ma è uno dei problemi a mio parere rimasti aperti nella riflessione arendtiana. Prego, Gabriella Turnaturi. Io vorrei una domanda, da sociologo ignorante, accorgimento retorico. Volevo chiedere una cosa a Laura Boella, che mi ha molto colpito quello che diceva rispetto, come dire, a questi temi apparentemente assenti ma invece sotterranei nei testi dell'Arendt, cioè il corpo, un sentimento che non è sentimentalismo, il tema dell'amicizia. Allora, per me è stato fulminante, per esempio, leggere il carteggio con la Mary McCarthy, e mi chiedo se appunto quel carteggio, che sembra così una cosa simpatica, divertente, eccetera, non vada forse invece rivalutato proprio per pescarci questi elementi. Dico questo perché già il darsi di un'amicizia è così forte, così duratura fra due donne così diverse. Già questo, come dire, è qualcosa che ci rivela molte cose al di fuori dello stereotipo dell'Arendt, e ci dice molte cose, per esempio, sul non semplicemente la teoria, ma il mettere in pratica il potere condividere, non solo rispettare, il potere condividere la libertà degli altri. Lei guarda in fondo a questa sua amica sbarazzina con una simpatia infinita, senza mai giudicare e mettendosi sempre, come dire, dal suo punto di vista. L'elemento del corpo che la Mary McCarthy le butta addosso continuamente, con la sua sessualità, le sue avventure, i suoi vestiti, eccetera, rispetto alla quale lei non si sottrae affatto. Tutt'al più, come dire, pone uno sguardo ironico sull'eccesso, come dire, di corporeità della Mary McCarthy. No, ti chiedevo semplicemente se quel testo forse non vale la pena di riguardarlo per ritrovare questi fili. Io ci ho lavorato, insomma, ma ho lavorato non solo sul carteggio con McCarthy, anche sul carteggio con Heidegger, che è un altro mondo di scrittura, di dette e non dette, di lingua. Il carteggio, il mio saggio sul carteggio con la McCarthy, l'ho intitolato appunto Morale attraverso le lettere, perché tra l'altro voi sapete che dopo il caso Eichmann tutti hanno detto all'Arendt, l'hanno invitata a scrivere, gli unici che hanno colpivano con le frecce, l'hanno invitata a scrivere una morale politica, visto che lei aveva affrontato un problema etico-politico. E lei si è sempre pronunciata in maniera negativissima sulla possibilità di scrivere una morale. Secondo me la morale mai scritta di Arendt è l'analogo della politica, teoria politica mai scritta di Kant, perché poi vabbè, la scritta in altro modo. Uno dei modi in cui Arendt ha scritto la sua etica è stato proprio nelle lettere alla McCarthy, dove peraltro troviamo pezzi di esempi, per esempio se ti puntassero una pistola alla tempia, eccetera eccetera, che lei poi ha usato nelle sue lezioni, quindi c'è un travaso, quelle del 64-65, questioni di filosofia morale, ma proprio nella relazione con questa amica, secondo me loro si sono amate veramente molto, pur essendo molto diverse, ciascuna rimanendo quello che era, no? Affrontano proprio questioni etiche che sono a partire appunto da McCarthy, che le faceva leggere un pezzo particolarmente osé di un suo romanzo, il romanzo che stava scrivendo, dice, non so se la persona adatta a leggerlo. E Arendt lo leggeva e commentava nel suo modo, diciamo, molto brillante e al tempo stesso anche molto riservato. Io sono convinta che ci siano, diciamo, dimensioni di scrittura e di pensiero, come quelle per esempio di un carteggio tra due amiche, che hanno la stessa, diciamo, dignità di un saggio, hanno però regole diverse, no? Rispetto a un saggio. Peccato che normalmente vengono invece fatte confluire o nel laboratorio del pensiero oppure nella pura e semplice biografia, quindi nel cosiddetto privato. Invece proprio un esempio di epistolario che appunto riempie un vuoto ma con regole specifiche, è proprio quello con la Mercatia. Infatti è molto importante da quel punto di vista. Bene, altre domande? Nulla? Non vi sollecita nulla questa distinzione dei regimi di scrittura? Prego. Io volevo chiedere a Montani di, se poteva invece dedicarci un po' di tempo sulla bioetica, cioè sulla bioestetica. Lui ha scritto di bioestetica. Io la ringrazio, però temo, stiamo discutendo da quasi tre ore, il che significa che insomma gli argomenti che abbiamo messo sul tavolo sono numerosi e due e mezzo e coinvolgenti. Io veramente non ho la sensazione di essere un po' invasivo se tocchiamo anche quest'altro argomento. Beh, no, perché lo toccherei in modo critico più di quanto non abbia fatto fin qua, e no, ho un po' di disagio, nel senso che mi sembrerebbe di invadere un po' uno spazio che il pubblico potrebbe avvertire come in questo momento, insomma. È per me un polo di tensione interessantissimo. Sì, bisogna appunto vedere con molta accuratezza come si declina. Io me la caverei con un paio di osservazioni. Una va nel senso di quanto stava indicando Laura Boella. Io credo, a livello puramente sintomatico, che il fortissimo interesse che Hannah Arendt ha per Merleau-Ponty nell'ultima fase del suo pensiero sia un indizio di un potente ripensamento della questione della vita, quale è presente per esempio nella nozione di carne di Merleau-Ponty. Questa è la prima cosa, ma qui appunto dobbiamo lavorare a scrivere quel judging rimasto non scritto. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ma mi limito a dei capitoli, voi sapete tutti che Hannah Arendt ha anticipato in modo limpidissimo il giudizio sulla biopolitica, cioè non c'è cosa che non sia stata detta dopo da Foucault, non parlo degli altri interpreti, che già non sia leggibile nei testi di Arendt, a cominciare da The Human Condition, che si conclude, come tutti sapete, con quei capitoli sul trionfo, la vittoria dell'animal laborans, dell'oikos, eccetera. Inoltre, Hannah Arendt quindi anticipa sicuramente questo tema e provvede a una certa concettualità con cui alcuni interpreti l'hanno affrontata. Uno di questi termini è il ripensamento della creatività in termini di natalità, ho accennato appena qualcosa del genere mentre indicavo la questione della innovatività del giudizio, introdurre nuove serie nel mondo, eccetera. Succede tuttavia, e questa è la parte critica che appunto esito a mettere in gioco, perché poi verrebbe naturale, ciò che manca in Arendt, ancorché ella stessa avesse visto, ricordate che la vita della mente comincia con un'immagine, no scusate, la vita attiva comincia con un'immagine straordinaria che è lo Sputnik, cioè è l'occhio del cosmoteoros, l'occhio emancipato dalla condizione merleau-pontiana di essere parte del visibile e che fa questa... La mia idea era allora, c'è un'immagine analoga in Heidegger, che voi ricordate nell'intervista famosa allo Spiegel, Heidegger dice: ah, mi fece un'impressione terribile, 10 anni dopo la sua morte venne pubblicata, mi fece una grande impressione vedere la Terra come un oggetto, un Gegenstand, cioè qualche cosa che qualcuno arriva a guadagnare la condizione di potersi mettere di fronte a sé in virtù di uno strumento tecnico che stava lì su. Era per l'appunto lo stesso Sputnik di cui parla Hannah Arendt. Allora, adesso indipendentemente da questa, la mia idea era, la tesi è, l'epoca dell'immagine del mondo, che è oggi l'epoca del Gestell, qui prendo in modo massiccio la teorizzazione heideggeriana, l'epoca dell'immagine del mondo minaccia di essere la fine dell'epoca dello spettacolo del mondo. Come si, vedete che i temi sono importanti, come si affronta questa questione? Si affronta, secondo me, qui vengo alle mie tesi personali, che non so quanto interessino i presenti, perché non hanno più a che fare con Arendt, benché Arendt le avesse viste e avesse dei pensieri su questo, rimane uno di quei pensatori o pensatrici in cui la questione della tecnica non ha un peso specifico, così come non ce l'ha in Foucault, che proprio del problema della tecnica biopolitica si lo tocca, ma non si rende conto che bisogna passare attraverso quella zona di intersezione tra tecnica e biopolitica, perché, che sono le biotecnologie. In Agamben non ne parliamo neppure, neanche nel mio nostro amico Roberto Esposito. Esattamente, infatti si tornava alla questione del corpo. Cioè, la mia idea è che qualcosa del genere invece possa trovare una via d'accesso, una risposta, soltanto, ma insomma, affiora ma niente di più, affiora ma niente di più, è singolare che affiori così poco, cioè che non ci si renda conto che la vita deve essere completamente rideclinata in la vita biologica, cioè il sostrato passivo di delle, tu poni la domanda molte volte, io me l'ero segnata, cioè la vita attiva, che non è un titolo di Arendt, ma insomma, la vita attiva è qualcosa che può fare a meno di tematizzare il suo sostrato biologico? No, tutti lo abbiamo detto, ma oggi, ma noi stiamo parlando oggi, Arendt è morta nel 75, che è anche il tema dell'immaginazione, oggi lo possiamo affrontare soltanto passando per la tecnica, questo era il mio pensiero personale, che ho anche elaborato in alcuni temi, testi, eccetera. I nuovi media non li conosceva. E abbiamo uno strumento per fare questo. È un tema che Laura Boella può aver ascoltato nella mia relazione a Milano a un convegno su Merleau-Ponty a cui abbiamo partecipato insieme, e che la nozione di carne consente questo, cioè questa espropriazione tecnica, mentre quella di corpo, almeno sotto un certo profilo, cioè il corpo proprio, il corpo sacro, eccetera, non consente, perché la carne nasce espropriata. Per esempio, e col compo di Nancy, eccetera. No, e allora queste sono le strade che dovrebbero, però siamo ben oltre Hannah Arendt. Hannah Arendt ci dà molto per indicare queste strade. Ecco, me la caverei con questa. Ci dà molto, no? Beh, no, tutto. Cioè, fortunatamente. Bene, allora, grazie. Insomma, grazie tantissimi. Auguri al libro di Elena Tavagni.